Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. I pensieri negativi sembrano essere un fattore di rischio per la demenza, e questo suggerisce uno studio che ha coinvolto un gruppo di oltre 3.500 over 55 pubblicato sulla rivista Alzheimer e Dementia, che commentiamo con il professor Alberto Albanese, responsabile di neurologia dell'Humanitas e docente all'Humanitas University. Si tratta di uno studio molto interessante perché si riferisce ad un concetto nuovo, moderno, che è la cognitività perseverativa, detta anche pensiero negativo. Si tratta di persone che trascorrono troppo tempo a preoccuparsi rispetto al futuro o a ruminare rispetto al passato. Quindi i loro pensieri sono focalizzati su questi due aspetti del futuro e del passato piuttosto che sull'attualità e su aspetti più concreti. Persone con questo profilo di personalità hanno una maggior facilità di sviluppare l'Alzheimer e sviluppano anche le alterazioni biologiche, quindi l'accumulo di tau e di amiloide nel cervello. Questo vuol dire che il lavoro di rete dei neuroni, il modo in cui lavorano e le cose di cui si occupano sono importanti anche per la malattia, oltre che per la salute naturalmente. Questo tipo di pensiero negativo può essere corretto con delle terapie cognitive, quindi è anche correggibile come fattore di rischio. Questi dati si aggiungono a conoscenze già presenti in letteratura sulla depressione e sull'ansia come fattori di rischio per la demenza di Alzheimer. Si sovrappongono in parte perché chi ha questo tipo di pensieri negativi ha anche molta ansia in genere e può apparire depresso. Possono esserci diagnosi di depressione che in realtà si riferiscono a questo tipo di pensieri negativi piuttosto che una depressione come classicamente si intende. Professor Albanese, qual è invece ad oggi la ricetta per proteggere la salute del nostro cervello dal rischio di ammalarsi di una malattia neurodegenerativa? Dal punto di vista cognitivo la protezione si basa sul mantenere interessi di ogni tipo, non solo la memoria, quindi facendo parole incrociate o quiz, ma anche capacità associative, interattive di diverso tipo, la socialità che ha sofferto molto in questi ultimi tempi, l'interattività. Quindi diversificare, la ricetta è diversificare ed esercitare il più possibile le diverse funzioni del cervello. Bene, per oggi è tutto, vi aspetto per gli incontri a tu per tu. Oggi insieme al dottor Gabriele Piuri, medico esperto in nutrizione, parliamo di fame nervosa. Vi diamo le indicazioni per saperla riconoscere e 4 suggerimenti per affrontarla. Vi aspetto, non mancate, una buona giornata da Nicoletta.